Storiacce di Raffaella Calandra. Poi la valutazione degli attentati era quella di un sussulto della fazione transista di Cosa Nostra, finalizzata a fare degli out ai pubblici poteri o fare pressioni di tipo destabilizzante. Questo l'ha detto Napolitano. Sì, poi parla del blackout che venne interpretato in quella maniera che ho detto prima. Tutti pensarono a un colpo di Stato. Un tentativo di colpo. Di colpo di Stato. Un out di Cosa Nostra allo Stato nella stagione delle bombe e dei misteri. Una scolaresca in gita sorride e schiamazza sulle scale di Piazza del Quirinale. A pochi metri rivivono i misteri d'Italia tra gli appunti di un diligente avvocato. Sta aiutando la stampa a ricostruire un'udienza senza precedenti, la deposizione del Presidente della Repubblica nel processo sulla trattativa Stato-mafia. E così, tra la leggerezza del ponentino romano e l'allegria dei bambini, si richiamano i giorni in cui la stessa tenuta della Repubblica fu messa in discussione. Di fibrillazioni istituzionali, di timori di golpe, di out di Cosa Nostra allo Stato per avere un alleggerimento delle misure di custodia cautelare o per la destabilizzazione del paese, parla Giorgio Napolitano nella Sala del Bronzino divenuta per un giorno aula del Tribunale di Palermo. E questo per i PM del processo sulla presunta trattativa Stato-mafia è il passaggio cruciale di quelle 3 ore di interrogatorio. È la conferma di un ricatto dei boss. Scritta anche questa pagina storica di cronaca giudiziaria, col primo presidente della Repubblica in carica che depone davanti ad una corte d'assise, cerchiamo allora di andare nel cuore della presunta trattativa, in uno snodo fondamentale dell'inchiesta. Da una parte le richieste di Cosa Nostra sul carcere duro, dall'altra i tentativi di contatto col mondo delle istituzioni del sindaco mafioso di Palermo, Vito Ciancimino, con Luciano Violante. E dunque le storiacce partono da qui. Put a bomb. Everything was exploding. This is the Academy for Geobombing. A Cosa Nostra, la notte del 27 maggio del 1993, intendeva colpire lo Stato. Qualcuno ipotizza una bomba. È strage. Sono da poco trascorse le 23 del 27 luglio del 93 a Milano, quando via Palestro si trasforma in un girone infernale. A Roma, meno di 40 minuti dopo, esplode un'auto a San Giovanni in Laterano. Appena trascorsa la mezzanotte, ancora a Roma. Via del Velabro, nuova esplosione. Questo era il 93, l'anno degli attentati sul continente, l'anno della sfida allo Stato dalla mafia più spietata, che minaccia una serie di politici siciliani e di uomini delle istituzioni e che avanza una lista di richieste per riporre il suo tritolo. Ma qualcuno diede un ordine perché si provasse a trattare? La storia è complessa e delicata come mai prima. Decine di rappresentanti delle istituzioni e della politica sono già sfilati davanti alla Corte d'Assise di Palermo tra ricordi più o meno precisi e vari non so. Ora però la Procura è sicura di aver ottenuto un importante passo avanti nella propria indagine, nella conferma anche dal Presidente della Repubblica che la mafia stava effettivamente mettendo lo Stato davanti ad un out, appunto. La fine delle stragi in cambio dell'alleggerimento del carcere duro. L'altra opzione era la destabilizzazione politico-istituzionale, leggiamo dalla trascrizione della deposizione di Napolitano, del paese. Un tassello importante per noi, ammette con storiacce il procuratore reggente di Palermo, Leonardo Agueci. È stata una giornata molto importante per le istituzioni del nostro paese. Sul piano pratico poi è stato un atto processuale per noi di grande risultato. Ci ha consentito di acquisire degli elementi importanti. Quindi voi come ufficio ritenete che quello che il Presidente ha raccontato a proposito, diciamo, di quel clima che nel 93 lui anche ha personalmente vissuto rappresenti un punto, diciamo, importante nella ricostruzione della vostra inchiesta? È certamente un passo avanti, perché sia un passo avanti decisivo, fondamentale, è presto per dire esagerato, e appunto il processo trattativa è un mosaico in cui si devono ricomporre insieme un numero elevatissimo di tessere. La tessera rappresentata da questa deposizione certamente è una tessera che contribuisce a quel quadro d'insieme che riteniamo di poter dimostrare nello svolgimento del procedimento. Anche perché il presidente, quando parlava delle bombe del 93, ha parlato esplicitamente delle fibrillazioni istituzionali. Esattamente, esattamente. Sicuramente ha parlato di un out-out che può essere tradotto, diciamo, anche con un termine ricatto. La ricostruzione è stata di uno stato delle istituzioni in qualche modo sotto attacco, di attacco proveniente dall'ala più violenta di Cosa Nostra, si era fatto riferimento esplicito ai corleonesi. Queste ulteriori considerazioni serviranno a completare un quadro. Dunque è intorno alle carceri che sarebbe avvenuta la presunta trattativa e intorno al regime di carcere duro, il 41 bis introdotto solo dopo la strage di Via D'Amelio. In prima fila in quei mesi del 92 c'era anche Loris D'Ambrosio, già collaboratore di Giovanni Falcone nel mettere a punto proprio la normativa antimafia, poi all'alto commissariato con Domenico Sica, quindi consigliere giuridico del Quirinale. E al presidente Napolitano mandò quella ormai famosa lettera con i suoi timori di essere stato un ingenuo scriba scudo per indicibili accordi. A cosa faceva riferimento D'Ambrosio? Su questo Napolitano non aggiunge molto nella sua deposizione. Non ne avevamo parlato, spiega, e il procuratore di Palermo ammette che effettivamente lui si sarebbe aspettato qualcosa di più. La vera difficoltà di questo processo è proprio questo, che andare a ricercare con grande fatica pezzi di verità in questo contesto è molto difficile. No, certo, però in questo momento... Secondo me invece può ancora essere fatto tantissimo da parte di tante articolazioni dello Stato, da cui magari ci aspettiamo ancora qualcosa di più. Il passaggio in cui il Presidente, diciamo, ha negato di aver mai saputo, diciamo, di accordi indicibili, per dirla con le parole della lettera del consigliere D'Ambrosio, non rappresenta un punto in meno rispetto alla evoluzione della ricostruzione della Procura? Questo non è che il processo trattativa si basa sulla lettera di D'Ambrosio. No, certo. È un ulteriore elemento. Magari potevamo sperare di avere qualche chiarimento in più. Il fatto che non ci sia stato non è che serve a dare una valutazione negativa a tutto questo. Noi prendiamo atto che su queste cose il Presidente non ha avuto null'altro da aggiungere a quello che ha detto, e non abbiamo motivo di ritenere che sia stato in qualche modo evasivo o reticente. Insomma. Non c'è spazio per pensare ad una sua reticenza? Lo escludo assolutamente, proprio l'atteggiamento non è stato assolutamente reticente. Quali potevano essere gli indicibili accordi? È un fatto che allora furono revocati 330 decreti di carcere duro ad altrettanti boss in quella stagione di bombe e messaggi, come la lettera che i parenti dei detenuti nelle carceri speciali di Pianosa e Asinara mandarono anche all'allora capo dello Stato, Oscar Luigi Scarfaro. Leggendo in controluce però l'elenco dei destinatari di quella missiva, si scoprono oggi anche i bersagli di quell'azione terroristica sul continente. Una lettera che è stata a lungo analizzata da Sebastiano Ardita, magistrato a lungo proprio al DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Ma è stata una stagione molto complessa, perché all'indomani delle stragi di Capaci e Via D'Amelio vi fu questa risposta forte dello Stato col 41 bis alla mafia, e questo comportò inevitabilmente un riattrezzarsi di Cosa Nostra. Una volta che per Cosa Nostra la stagione delle grandi latitanze, del carcere di passaggio si è consumata e si è sostituita a quella stagione, una stagione di permanenza stabile in carcere, è chiaro che gli interessi dell'organizzazione erano tutti, diciamo, su questo regime, e voleva senz'altro Cosa Nostra che venisse a meno in ogni modo e con qualunque possibilità di condizionamento. Mi ha colpito la vicenda di un esposto che un gruppo di familiari di detenuti del carcere duro di Pianosa avevano inviato al Presidente della Repubblica, allora nel 93 era Oscar Luigi Scalfaro, e non solo, anche a tutta una serie di altre personalità, un elenco di destinatari che, diciamo, potrebbe essere guardato in controluce anche con i luoghi degli attentati successivi, quelli cosiddetti sul continente. Esattamente, sì, c'è stata questa reazione dei parenti dei detenuti, e chiaramente era una reazione che veniva direttamente da Cosa Nostra, che hanno voluto far presente al Presidente della Repubblica la loro posizione, direi aggressiva, verso questo istituto e verso chi nelle loro, diciamo, denunce, nelle loro lagnanze, avrebbe mantenuto il polso duro sul 41 bis. Tra i propri destinatari tre figure chiave che sono il Papa, il Vescovo di Firenze e il presentatore Maurizio Costanzo, si verificano tre attentati che sono riconducibili ai luoghi dove queste persone svolgevano la loro attività. Nel caso ai Georgofili muoiono quattro persone, ci sono moltissimi feriti, lo stesso a Milano e a Roma, anche se non ci sono vittime, il danno enorme al patrimonio della Chiesa, al patrimonio artistico della collettività. Quindi un passaggio ancora tutto da chiarire fino in fondo è quanto successe sempre nel 93, quando ad un certo punto ben 334 detenuti in una sola volta uscirono dal carcere duro. Che in un passaggio molto complesso di scadenze, di atti diversi, poi in effetti, come lei ha già detto, per 334 mafiosi non venne reiterato il 41 bis. La ragione fu quella di una ristrutturazione del circuito. Giovanni Conso ha detto che quella decisione rientrava in un'ottica di un tentativo di fermare o di frenare quantomeno la minaccia di altre stragi. La realtà di fatto è che quei provvedimenti furono, diciamo, non prorogati per volontà dell'amministrazione, non del ministro. L'allora guardasigilli Vincenzo Conso ha sempre sostenuto che quella fu una decisione solo sua, quella di alleggerire la tensione. A Palermo in realtà non ci credono davvero. Troppe dimenticanze rendono difficile la ricostruzione. Il procuratore, come abbiamo sentito, invita altri pezzi dello Stato a collaborare, ma questo processo fa paura a tanti, va ripetendo un altro magistrato. Troppe tessere mancano ancora, troppe tornano all'attenzione soltanto ora, come ad esempio la richiesta di Vito Ciancimino, sindaco mafioso di Palermo, di avere un colloquio con l'allora presidente della commissione antimafia Luciano Violante, appena ritiratosi dalla corsa per la consulta. Per l'avvocato di Riina è in questa direzione che ora si sta andando. Storiacce. Ci fu una discussione vivace circa l'opportunità o meno che la commissione antimafia sentisse dei collaboratori di giustizia. Lei venne informato dal presidente Violante o eventualmente da altri che il già allora noto Vito Ciancimino aveva richiesto di essere audito innanzi alla commissione parlamentare antimafia? Sì, ricordo vagamente, sì. Poi fu notizia apparsa rapidamente anche sulla stampa. Al di là della pubblicazione sulla stampa, presidente, riesce a ricordare in che termini e chi gliene parlò in esito alla richiesta di Vito Ciancimino? Molto probabilmente lo stesso presidente Violante. Poi l'orientamento che fu assunto fu un orientamento negativo nei confronti di quella richiesta. Riparte la corte e gli fa: ma quando viene Violante, gli parla dei carabinieri. Questa questione di Violante è interessante assai, perché nella linea della trattativa credo di capire loro vogliano andare su anche questo nome, no? Prima il verbale, poi l'interpretazione dell'avvocato di Totò Riina. Quelle che avete appena sentito prima erano le domande e risposte del Presidente della Repubblica al Quirinale in un altro passaggio chiave della sua deposizione, poi le parole di Luca Cianferoni, difensore del capo dei capi di Cosa Nostra, Totò Riina. Il nome di Violante riscivola di nuovo negli atti del processo sulla trattativa Stato-mafia, già ascoltato anche a Palermo dopo i racconti di Massimo Ciancimino, controverso figlio dell'ex sindaco mafioso della città, Vito. L'ex presidente della commissione antimafia potrebbe ora essere di nuovo convocato, ora che anche il capo dello Stato ricorda le discussioni sulla possibilità o meno di convocare l'uomo che i corleonesi vollero alla guida del capoluogo siciliano, l'artefice del sacco di Palermo, Vito Ciancimino. Questo non avvenne mai, Vito Ciancimino non fu mai ascoltato a Palazzo San Macuto, ma una richiesta ufficiale fu consegnata direttamente dal figlio, Massimo Ciancimino. Lo aveva già raccontato anche a noi, anche a Storiacce nel 2009, lo ha messo agli atti a Palermo e così anche oggi ricostruisce questa circostanza. Lo fa anche dopo varie inchieste e arresti che hanno smontato in parte la sua attendibilità. Questo è bene ricordarlo. Ricordo perché sono stato io stesso a portare quella che è stata poi la richiesta ufficiale presso Palazzo San Macuto in commissione antimafia. Era stata preceduta da una richiesta informale fatta dallo stesso mio padre attraverso i carabinieri di poter incontrare il nuovo presidente della commissione Violante, in quanto lui lo riteneva l'unico elemento di convergenza tra politica e magistratura. La richiesta di suo padre informale a chi di poter incontrare Violante? Al colonnello Mario Mori e al capitano Giuseppe De Donno. Sono tra gli imputati del processo sulla trattativa. Come andò questa prima richiesta informale di incontro con Violante? Non andò a buon fine, non vedeva l'opportunità di un incontro a solo con mio padre. A seguito ci fu la consegna da parte di mio padre di un libro di memorie che fu portato all'onorevole Violante, e in quel successivo incontro sempre il colonnello Mori rinnovò questa richiesta, definendola importante da un punto di vista politico e da un punto di vista anche di sicurezza per il nostro paese. Ecco, suo padre che tipo di messaggio aveva affidato a Mori e a De Donno perché fosse portato a Violante? Mio padre voleva pianificare col dottor Violante un metodo e una formula per mettere fine a questa politica stragista. La risposta negativa di Violante avvenne sempre attraverso gli stessi interlocutori? Avvenne attraverso gli stessi interlocutori che sollecitarono mio padre a formalizzare per iscritto il suo intervento in commissione, cosa che mio padre fece con una particolarità, che la stessa udienza in commissione antimafia doveva essere di carattere pubblico, cioè aperta a tutti i giornalisti. E nonostante io porto a mano questa richiesta nei primi di settembre a Palazzo San Macuto, la stessa viene protocollata soltanto i primi di dicembre, 15 giorni prima che mio padre fosse arrestato, perché mio padre lamentava come mai allora nel 92, pur essendo Vito Ciancimino l'unico politico condannato per mafia, nessuna commissione antimafia da quando si è insediata nel 1956 avesse ritenuto opportuno ascoltare Vito Ciancimino. Aveva specificato anche il perché la mafia stava mutuando in quei suoi atteggiamenti. Nel frattempo ci sono state anche tutta una serie, diciamo, di vicende che l'hanno direttamente riguardata e che avevano anche messo in dubbio alcune delle sue deposizioni. È stato anche arrestato, insomma, ci sono stati anche vari punti che hanno messo in dubbio ed inchieste aperte su quello che lei ha detto. Forte dubbio, che hanno smentito anche in alcuni casi. La domanda è: Massimo Ciancimino in qualche modo ha condiviso, diciamo così, le sue dichiarazioni anche convinto da qualcun altro? No, credo che ho agito con la massima sincerità e con la massima spontaneità. Lei pensa di aver fatto qualche errore? Sicuramente c'è stata una sovraesposizione mediatica e talvolta una voglia di accondiscendenza nei confronti di una magistratura che aveva l'esigenza di andare incontro alla verità. Forse un atteggiamento più prudente. Che vuol dire voglia di accondiscendenza? Magari su certi argomenti, prima di dire sì, mi ricordo, avrei dovuto riflettere di più. Cioè che diceva le cose che un po' i PM si volevano sentir dire? Su certe cose, prima di dirle, avrei dovuto avere un minimo di carte a supporto di quello che dico. Le discussioni sul carcere da una parte, gli incontri con uomini delle istituzioni dall'altra. In queste due direzioni continua a muoversi il processo sulla trattativa Stato-mafia, motivo di furiose polemiche negli ultimi anni, forse proprio perché fa paura, dice a Storiace il procuratore aggiunto di Palermo, Vittorio Teresi. Quando ci sono così tante polemiche, forse bisognerebbe chiedersi anche perché ci sono e chi le crea. Che qualche polemica abbia un sapore strumentale, ne ho la quasi certezza. Dei suoi colleghi hanno parlato del fatto che questo processo sia non voluto da parte del mondo delle istituzioni. Diciamo che è un processo che probabilmente fa paura a qualcuno, fa paura a chi è indagato in questo processo, non credo ad altri. Un processo che fa paura, un processo che affonda nella pagina più buia della storia della Repubblica, il processo più controverso degli ultimi tempi, entrato nel colle più alto. Ma in realtà di ricatti e trattative è piena la storia del mondo. Mitiche storiacce. Le mitiche storiacce sono le storie che non furono mai, ma sono sempre. Il mito non ci racconta solo la civiltà degli antichi, ma parla soprattutto di noi. Per questo, a conclusione delle storiacce, cercheremo di accostarci a quelle antiche vicende con un orecchio nuovo. E tolta la patina di polvere depositata dal tempo, saranno loro, quelle storiacce, a parlarci, e lo faranno attraverso la voce di Giorgio Geranò, professore all'Università di Trento e autore per Sonzogno di volumi sui miti, gli dèi e gli eroi. Allora Giorgio, ricatti e trattative appartengono già anche al mondo del mito. E già, Proprio perché simili agli uomini anche nei loro vizi, pure gli dei dell'Olimpo erano a volte vittime di minacce segrete e trame occulte. E perfino Zeus, il signore degli dei e dell'universo, dovette più volte fare i conti col ricatto dei nemici. Nemici come la stirpe dei titani, discendenti dalla madre terra. Il più famoso di loro è senza dubbio Prometeo. Per noi umani, il benefattore che ha donato il fuoco. Per l'Olimpo, però, era un pericoloso eversore, tanto che Zeus lo fece imprigionare in un carcere duro, peggio del 41 bis. Fu inchiodato per punizione a una rupe sui monti lontani del Caucaso. Ed è da quei ceppi che il titano avviò le sue trattative col potere costituito degli dei. Come? Attraverso un ricatto. Io conosco un segreto che ti può spodestare, fa sapere a Zeus. E il padre degli dei si sente effettivamente minacciato da questo titano imprigionato, tanto da mandargli Hermes, il suo messaggero. A lungo, ma invano, Hermes cercò di estorcere la compromettente informazione. Ma Prometeo era pronto a rivelarla solo in cambio della libertà. E allora Zeus che fa? Prevale la linea della fermezza e fa sprofondare Prometeo nelle viscere della terra e per punizione ordina che per l'eternità un'aquila gli divori il fegato. Anche se per alcuni, dopo un po', Prometeo riuscì a trovare un accordo con Zeus e fu infine liberato. In cambio di qualcosa? Ma forse è un caso mitico di trattativa fallita. Almeno, però, questa trattativa è divenuta grande poesia nei versi del Prometeo di Eschilo. Ma queste sono storiacce di 2500 anni fa. Grazie a Giorgio Ieranoi e alle sue mitiche storiacce che ritroviamo settimana prossima. In chiusura uno spazio aperto a tutti voi, lo spazio per le vostre segnalazioni. Cosa volete portare alla nostra attenzione? Quali storiacce volete denunciarci? Quali disservizi raccontarci? Questo spazio sarà d'ora in poi infatti il vostro sportello reclami. Scrivetemi o via mail o sulla pagina Facebook di Storiacce o ancora sul blog Storiacce. Su Twitter invece mi trovate all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa puntata, ma anche le vecchie di A Ciascuno il Suo, invece, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto!